GR24, il sole 24 ore. Napoletano nel giorno della memoria, ci vuole vigilanza dovunque si manifesti il germe dell'intolleranza. Frattini in Senato sulla casa di Monte Carlo, autentiche le carte arrivate da Santa Lucia e le opposizioni lasciano l'aula. Egitto, migliaia manifestanti arrestati, oggi è il giorno del ritorno del premio Nobel per la pace, il Baradei. Troppo smog nelle città, ritornano le domeniche a piedi fra polemiche e disagi. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Cecin. Primo piano le celebrazioni nella giornata della memoria e ci colleghiamo in diretta con Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, un monito a mantenere viva l'attenzione contro ogni demonizzazione del diverso e dello straniero, quello che arriva dal capo dello Stato durante la solenne cerimonia che si è conclusa poco fa in Quirinale, perché l'intolleranza, sottolinea Napolitano, è un germe distruttivo. Sentiamo un passaggio del suo discorso. Attenzione, vigilanza e pronte reazioni dovunque quel germe si manifesti e in qualsiasi forma, anche in paesi che si sono dati dichiarazioni di principi e costituzioni democratiche. I principi debbono farsi vivere, debbono sempre richiamarsi perché siano pienamente rispettati. Bene, dunque, dice ancora Napolitano, l'impegno della scuola a far conoscere la mostruosa vicenda della Shoah. Poi un ricordo di Tullia Zevi, ex presidente degli ebrei romani, morta sabato scorso all'età di quasi 92 anni, alla quale durante la cerimonia sono stati tributati diversi applausi. La Zevi è stata ricordata con commozione anche dal presidente delle comunità ebraiche italiane, Renzo Gattegna, cerimonia che quest'anno cade nel 150° anno dell'Unità d'Italia, sottolineato infine il capo dello Stato ricordando l'apporto degli ebrei e la loro attiva partecipazione al risorgimento, alla costruzione dello Stato unitario. Intervento anche del ministro dell'istruzione Gelmini, che ha annunciato: andrò in pellegrinaggio ad Auschwitz con gli studenti. E da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. E il ministro degli esteri Franco Frattini ha riferito questa mattina in Senato sulla casa di Monte Carlo di AN. Ce ne riferisce Andrea Viali. Sì, fra le proteste dell'opposizione, Frattini ha spiegato che le autorità dell'isola caraibica di Santa Lucia hanno confermato che è autentico quel documento secondo il quale la società offshore proprietaria di questa ex casa di AN a Monte Carlo sarebbe riconducibile al cognato di Fini, Giancarlo Tulliani. Frattini comunque non ha voluto rivelare i contenuti di questo documento, ma sentiamo cosa ha detto. Sia la lettera, sia il documento allegato sono stati da me inviati per le valutazioni di competenza e quindi non nella indicazione di eventuali fattispecie di illecito o di illecito penale alla Procura della Repubblica di Roma, poiché mi risulta che vi sia ancora un fascicolo aperto sulla vicenda. Questo era Frattini. Fini, lo ricordiamo, aveva promesso che se la casa fosse stata di proprietà di suo cognato si sarebbe dimesso dalla presidenza della Camera. Dimissioni, lo sappiamo, che sono sollecitate oggi ancora di più dalla maggioranza. Le opposizioni invece, prima dell'intervento di Frattini, hanno abbandonato l'aula ritenendo una forzatura il suo intervento in Senato. Sentiamo la democratica Finocchiaro. Non è possibile che per piegare l'Aula del Senato, la discussione e la stessa presenza del Governo in quest'Aula, ad un'esigenza di natura squisitamente politica e, lasciatemi dire, del tutto assolutamente insignificante per i problemi che ha il Paese in questo momento, il Ministro degli Esteri venga convocato, questa interrogazione messa immediatamente all'ordine del giorno. E grazie ad Andrea Viali. La Giunta per le autorizzazioni della Camera invece alle prese questa mattina con l'esame della richiesta della Procura di Milano sul caso Ruby. Ce ne riferisce Elisabetta Fiorito. Sì, appunto, ci sono le nuove carte del caso Ruby, carte che dimostrerebbero anche i pagamenti a Darkon e un'altra minorenne coinvolta. Di tutto questo quella Camera si sta occupando, la Giunta per le autorizzazioni, che voterà fra un'ora sulla richiesta di autorizzazione alle indagini sul premier dei PM milanesi. La maggioranza chiede di respingere la proposta. Sentiamo perché dal relatore Antonio Leoni del PDL. L'invio degli atti ulteriori hanno dato, secondo me, la stura a rafforzare la mia ipotesi sulla capacità persecutoria dei magistrati di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio. Quindi lei dice no perché c'è una fumus persecutionis? Allo Stato ritengo che questa sia, anche se sta venendo fuori una grossa attenzione anche sulla competenza funzionale, parlo della ministerialità del reato. Sempre poi più scontro tra PM milanesi e centrodestra, il capo della Procura di Milano Edmondo Bruti Liberati interviene sugli articoli pubblicati oggi dal giornale che riguardano Ilda Boccassini e il procedimento poi archiviato dal CSM per atteggiamenti sconvenienti con un giornalista di sinistra. Per Bruti Liberati le campagne di denigrazione e l'attacco personale ai magistrati si qualificano da soli e il capo della Procura milanese esprime piena solidarietà e apprezzamento per la Boccassini. Per il momento è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Tutti contro tutti nel PD a Napoli dopo le primarie. Il segretario per Luigi Bersani ha annullato l'assemblea nazionale prevista per sabato proprio nel capoluogo partenopeo e una decisione sarà presa nel pomeriggio. Alfonso Merolla, capogruppo Nuovo PSI, Municipalità Pianura Soccavo, consigliere dell'Udeur Cierro di San Giovanni Lateduccio, un esponente del PDL che si chiama Gennaro Carrino, che ha un CAF a Chiaia, il consigliere di municipalità di San Carlo d'Arena, Raffaele Pacifico, che addirittura è stato fotografato, il vice sindaco di Melito del PDL. Non vuole aggiungere altro il segretario provinciale del PD Nicola Tremante dopo i nomi che avete sentito fatti pubblicamente in un'intervista a Repubblica TV. Da oggi la vicenda è nazionale precisa. Sarà infatti nel pomeriggio un vertice a Roma a decidere se annullare o meno le primarie di domenica scorsa che hanno visto vincere Andrea Cozzolino, già delfino di Antonio Bassolino, con 16.358 voti contro i 15.137 del responsabile PD per il Mezzogiorno Umberto Ranieri. L'anomalia è che i voti decisivi Cozzolino li ha raccolti tutti in tre sezioni, dove il numero dei votanti è oggettivamente superiore rispetto a quello di tutti gli altri seggi. Il sospetto provato da numerose foto è, come avete sentito, un accordo sotterraneo tra Cozzolino e il PDL, accordo che il diretto interessato smentisce con toni pacati, certamente più dei suoi sostenitori che hanno preso d'assalto martedì sera la sede locale del PD. Domani al Palapartenope Cozzolino riunisce i suoi. Un'assemblea per ringraziarli, dice, intenzionato dunque ad andare avanti. Tutto dipenderà dall'esito del vertice di oggi pomeriggio, mentre la città, dove tutto può accadere, resta a guardare attonita e Tremante riconosce. Siamo dinanzi a un vero bubone che va estirpato. I cittadini napoletani non meritavano questo sconcio. Anderita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Secondo voi la politica in TV è troppo urlata? Quanto vi abbiamo chiesto nel sondaggio di oggi, il 94% di voi ha risposto sì, il 6% ha risposto di no. La pagina degli esteri, un'autobomba esplosa a Baghdad, in Iraq, ad una veglia funebre, 35 morti, 65 i feriti. Contrattazioni ferme questa mattina alla borsa del Cairo proprio a causa dell'instabilità politica del paese. Allora ci colleghiamo con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Allora, qual è la situazione questa mattina? Si parla di migliaia di arresti ormai dall'inizio delle proteste. Sì, almeno 500 gli arresti, questo era il bilancio fino a questa notte, ma sono molti altri e oltretutto hanno colpito anche giornalisti e anche qualche blogger che ha contribuito a organizzare la manifestazione dell'altro giorno che ha praticamente paralizzato la città. Ma è un momento di calma, è un momento di calma carica di tensione, perché siamo alla vigilia della grande manifestazione che si svolgeranno domani nelle moschee e soprattutto al ritorno questa sera qui al Cairo di Mohammed Mustafa al-Baradei, l'ex direttore della IEA, il premio Nobel, ecco, leader che cosa di una può... delle formazioni dell'opposizione. Quindi che cosa può significare questo rientro? Sotto grandi misure di sicurezza. Mubarak deve andare via, è stata la sua dichiarazione che l'ha preceduto prima di arrivare qui. Grazie ad Alberto Negri, che si trova al Cairo. Ovviamente lo sentiremo anche nelle prossime edizioni di GR24 per seguire anche questo importante ritorno appunto di El Baradei nel paese. Ed ora invece ci trasferiamo sulle montagne svizzere, a Davos, per i lavori del tradizionale forum economico, e ci colleghiamo con Ugo Tramballi. Buongiorno Ugo. Buongiorno. Allora, oggi è stata la volta invece del presidente francese Sarkozy. Sì, Sarkozy è venuto, come già l'anno scorso, è venuto qui a Davos, naturalmente a bacchettare i banchieri americani, a bacchettare il sistema capitalistico che pretende di essere senza regole, ma soprattutto questa volta con molta forza a difendere l'euro, trasformandolo in un fatto personale. Io e Angela Merkel ha detto mai e poi mai permetteremo la caduta dell'euro. L'euro per gli europei è una conquista, l'euro per gli europei non è solamente una questione monetaria, ma una questione di identità europea, e questa è stata appunto la più forte difesa di una moneta che da due giorni qui a Davos viene continuamente presa a schiaffi. Pomeriggio invece come si prospettano i lavori? Il tentativo di continuare a prendere a schiaffi l'euro. Va bene, grazie ad Ugo Tramballi da Davos. Noi invece andiamo a Tokyo, perché la Sony ha presentato oggi la nuova PlayStation portatile, sarà in vendita per il prossimo Natale. Finalmente Sony mette fine alle voci di corridoio e alle numerose immagini che su internet tentavano di dare forma alla nuova PlayStation portatile. Sarà una console molto potente, avrà non solo un grande schermo touchscreen, ma anche il retro sarà sensibile al tocco. Si potrà collegare a reti Wi-Fi o UMTS per scaricare giochi, per giocare online, oppure tramite la geolocalizzazione GPS sapere a cosa stanno giocando i nostri amici vicini. Per ora non si conosce il prezzo e nemmeno il nome ufficiale, visto che Sony continua ad utilizzare il codice NGP, Next Generation Portable. La nuova PlayStation se la dovrà vedere sul mercato con la Nintendo 3DS, con schermo capace di riprodurre immagini tridimensionali senza occhialini, in arrivo in Europa il 25 marzo, ma nel mercato dei videogames portatili vanno oramai considerati anche gli smartphone di nuova generazione come l'iPhone. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte di GR24 abbiamo sentito le parole del presidente Napolitano nel giorno della memoria. Ci vuole vigilanza, detto dovunque si manifesti il germe dell'intolleranza. Frattini, il ministro degli esteri Frattini in Senato sulla casa di Monte Carlo, autentiche, ha detto le carte arrivate da Santa Lucia e le opposizioni lasciano l'aula. E poi abbiamo sentito dall'Egitto che migliaia di manifestanti che sono stati arrestati, e oggi è un giorno molto importante perché è il giorno del ritorno del premio Nobel per la pace El Baradei. Ripartiamo adesso invece parlando del blocco delle auto, in diretta qui accanto a me Laura Bettini. Buongiorno Laura. Buongiorno a tutti. Allora arriva l'autunno e arrivano i blocchi delle auto. Arriva l'inverno ormai, per fortuna andiamo verso la primavera, forse quella ci salverà, perché per adesso le cose vanno decisamente male su tutta la pianura padana da ovest a est. Le polveri sottili sono altissime. Domenica prossima il traffico automobilistico sarà bloccato a Torino, in alcuni paesi della cintura, ed è stato deciso dopo 17 sforamenti dei limiti delle PM10 dall'inizio dell'anno. La decisione che ha preso il comune è totalmente in disaccordo con la regione Piemonte, ma è stata presa dopo un incontro con i comuni della provincia che, al contrario, hanno quasi praticamente tutti aderito all'iniziativa del comune di Torino. Le polveri sottili però, come dicevamo, non danno tregua nemmeno a Milano, in verità neanche ai comuni dell'Interland e alle città limitrofe, Bergamo, Brescia, Pavia, e l'amministrazione milanese si prepara a fermare il traffico domenica. Le concentrazioni di PM10 qui sono ben oltre la soglia consentita dall'Unione Europea da 15 giorni. Una decisione definitiva però verrà presa al termine della giornata di oggi. Quale che sia questa decisione non servirà a granché, ci ha detto Nicola Pirrone, che è il direttore dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR. Una misura tampone più di tipo amministrativo che di tutela della salute. Limitare il traffico un giorno non è che crea valore aggiunto alla salute dei cittadini, né tampoco alla qualità dell'ambiente. Quei blocchi che invece più ampi sono stati fatti negli anni scorsi di molti più comuni dell'intera pianura, quelli hanno avuto un qualche efficacia che sia stata riscontrata scientificamente? Diciamo, l'efficacia è sempre una misura tampone che può durare qualche giorno, ma se lei proietta questa efficacia su un periodo temporale di un anno o anche più, per valutare i benefici, perché di questo parliamo. Diciamo che il vantaggio è limitatamente al periodo, perché poi dopo che si toglie il blocco si ritorna appunto da capo. Contro lo smog ci saranno proteste di piazza sabato a Milano, organizzata da varie associazioni, tra cui Genitori Antismog, WWF, FAI, Italia Nostra. Domani però ricordiamo la presentazione del dossier Malaria di Città 2010 sull'inquinamento atmosferico e acustico di Milano da parte di Legambiente. Saranno dolori. Saranno sì dolori. Grazie mille, grazie a Laura Bettini. L'anno scorso il gruppo Fiat ha superato tutti i target già rivisti al rialzo e le attese degli analisti. Al termine del CDA il gruppo ha annunciato un rialzo dei ricavi del 12,3% a 56,3 miliardi, un utile della gestione ordinaria per 2,2 miliardi e un utile netto pari a 600 milioni contro perdite precedenti di 848 milioni. Sono oltre 1.400.000 le aziende femminili nel 2010 e rappresentano il 23,3% del totale. Lo rivela un rapporto di Unioncamere che sottolinea un leggero calo rispetto al 2008, a fronte però di un tasso di crescita superiore rispetto alle aziende guidate da uomini. L'attività delle donne imprenditrici si concentra soprattutto nei servizi di sanità e assistenza sociale, alloggio e ristorazione. L'età media delle titolari è di 54 anni. E siamo in Spagna. Domani la riforma delle pensioni. Pare che sia stato raggiunto un accordo. Ci colleghiamo con Madrid e con Michele Calcaterra. Allora, l'accordo c'è o no, sì, secondo te? Beh, l'accordo c'è sicuramente, diciamo che le linee maestre della riforma sono state approvate nella notte e domani il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare questo progetto di legge. Sostanzialmente ci sarà un aumento graduale tra il 2013 e il 2027 dell'età pensionabile dagli attuali 65 anni a 67, con un aumento anche dei contributi da 35 a 37 anni. Si potrà comunque andare in pensione anche a 65 anni, però con dei contributi più elevati fino a 38 anni e mezzo. La cosa importante è che viene aumentato il computo del calcolo della pensione dagli attuali 15 a 25 anni, così come verrà aumentata l'età per la pensione anticipata da 61 a 63 anni. In aggiunta a tutto questo ci saranno misure per agevolare il computo della pensione anche, diciamo, ai giovani che iniziano con dei contratti di precariato comunque a termine, e anche per le donne che una volta in gravidanza lasciano il lavoro per, certo, qualche mese, questo potranno essere computate nella pensione. Infine ci saranno anche delle misure per gli over 55, in modo da, anche in questo caso, da facilitare la pensione. Grazie. Grazie a Michele Calcaterra da Madrid. Staremo a vedere dunque domani il varo della riforma delle pensioni in Spagna. Adesso invece torniamo in Italia per parlare di una legge che interesserà 43 milioni di italiani. Tanti sono coloro che vivono infatti in condominio. Dopo anni di gestazione è stata approvata dal Senato la riforma appunto del condominio. Ecco cosa cambierà se arriverà anche il sì della Camera. L'amministratore dovrà iscriversi ad un registro della Camera di Commercio, indire un'assemblea se richiesto da un condomino, stipulare una polizza assicurativa, ispezionare gli appartamenti se motivi di sicurezza lo richiederanno. I condomini poi potranno deliberare di vendere spazi comuni con una maggioranza più bassa. Una riforma attesa da tempo che non trova concorde gli amministratori. Per l'ANAIP, per esempio, è una riforma confusa e senza logica. Non la pensa così invece l'ANACI. Sentiamo il capo ufficio studi dell'associazione, Eugenio Correale. Occorre che il condominio conosca una vasta riforma e noi siamo favorevoli a questo, al fatto che il problema si sia posto e che magari si possa procedere a precisazioni e puntualizzazioni che pure si richiedono. Quali? C'è un problema che certamente si pone in relazione all'amministratore. È previsto il registro degli amministratori, ma non delle qualificazioni particolari dal punto di vista professionale. Poi vi sono dei temi che riguardano i diritti di proprietà. Boccia invece la riforma Confedilizia, che ritiene provocherà maggiori costi costi per i condomini e nuovi contenziosi. Ha delle proposte per migliorare il disegno di legge l'Associazione Nazionale Condomini. Augusto Cirla, segretario nazionale di Assocond. La nostra proposta è quella del fondo di garanzia. Una garanzia che sicuramente non può essere data con la polizza dell'assicurazione proposta invece dal disegno di legge. Per quanto riguarda invece il condominio, noi insistiamo sulla capacità giuridica, quindi un riconoscimento del condominio come entità autonoma rispetto ai condomini, una riforma quindi non esaustiva, ma comunque utile per la tutela del diritto del condomino. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La tassa di soggiorno è un provvedimento, come sapete, che ha fatto molto arrabbiare gli albergatori, che infatti hanno minacciato uno sciopero proprio nel giorno in cui si celebreranno i 150 anni dell'Unità d'Italia. La tassa di soggiorno non sembra pesare sul flusso dei turisti e comincia a far bene alle casse della capitale. Dal 1 gennaio Roma ha deciso di introdurre un contributo fino a 3 euro, anticipando di fatto la proposta che è in discussione in Parlamento col decreto sul federalismo. 1 euro per i campeggi, 2 o 3 euro a notte per le altre strutture ricettive, comprese quelle gestite dai religiosi, che a Roma sono tantissime. Il Campidoglio conta di incassare più di 80 milioni di euro all'anno e il vice sindaco Mauro Cutrufo parla di prime risposte positive, soprattutto da parte dei turisti stranieri. È stata accettata molto bene da tutta la clientela straniera, anche perché sono abituati un po' in tutto il mondo a pagare un contributo di soggiorno, la nostra non è una tassa. Viceversa, la clientela italiana, quando sentono parlare di tasse, sono molto sensibili. Anche il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, sottolinea che il problema riguarda soprattutto la clientela italiana. Le riluttanze maggiori sono venute proprio dalla clientela italiana, soprattutto quella business che magari viene per lavoro a Roma e si ritrova a pagare una tassa chiamata per i turisti. Cioè, annunciamo che la tassa di soggiorno, come è stato annunciato, servirà a migliorare i servizi della città e i punti critici sappiamo che sono i trasporti, il decoro urbano, la pulizia, la sicurezza, e se poi non c'è questo valore percepito sicuramente faremo una gran brutta figura di fronte al mondo intero. A livello nazionale gli albergatori guardano con ostilità al ritorno della tassa di soggiorno e minacciano la serrata per il 17 marzo, una data simbolica perché è festa dell'Unità d'Italia, mentre la nuova tassa sarebbe figlia del federalismo. Ma attenzione, per lo stesso vice sindaco di Roma non è detto che sia opportuno imporre il contributo di soggiorno in tutta Italia. Roma, Firenze e Venezia sono le forse uniche città in Italia che doverosamente debbono avere il contributo da parte degli ospiti, perché fra tutte e tre queste città abbiamo il 35% dell'intero incoming italiano. Chiara Di Cristofaro da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo allo sport, ancora una sorpresa agli Open d'Australia di tennis. Roger Federer è stato battuto da Novak Djokovic, numero 3 mondiale, che accede così alla finalissima del torneo dello Slam. Il serbo ha eliminato il campione svizzero numero 2 del ranking e detentore del titolo. In finale troverà il vincente dell'altra sfida fra il britannico Andy Murray e lo spagnolo David Ferrer, che scenderanno in campo domani. Invece questo è il ciclismo, ancora in primo piano, un problema di doping. Non è un bel inizio, diciamolo. Mentre la dormiente stagione ciclistica racconta di improbabili corse lontane, sugli inossidabili appassionati delle due ruote piomba già la prima tegola. E che tegola, lo spagnolo Alberto Contador, numero uno del mondo, rischia, oltre a un anno di squalifica, di perdere la maglia gialla dell'ultimo Tour de France. E questa è la decisione che il comitato disciplinare spagnolo ha preso dopo aver valutato i fatti dello scorso 21 luglio, quando cioè Contador, battuto Andy Schleck sul Tourmalet, venne pizzicato per una lieve traccia di una sostanza con la quale di solito si trattano gli animali da macello, tale da far dire ad Alberto che la sua era stata un'assunzione involontaria, dovuta a una robusta buffata di bracciole e bistecche. Ma la VADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping, non gli ha creduto. Il 10 febbraio la decisione è definitiva. Per Contador butta male, anche perché pare sia in arrivo una seconda positività. Domani a Maiorca, dove è in ritiro con la Saxo Bank, Lupo Alberto parlerà almeno per cercare di limitare i danni. Se abbia no il vizio è domanda difficile. Di sicuro con questa scura incombente il pelo rischia di perderlo. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Filippo Aureggi. GR24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.